Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Caro direttore, perché se siamo governati dalla destra i politici al governo dicono che hanno ricevuto un debito dall'amministrazione precedente e se siamo governati dalla sinistra dicono la stessa cosa? In questo modo, per anni, noi poveri cittadini, con il nostro voto e i nostri sacrifici, abbiamo mandato a governare delle persone, sapendo che avrebbero avuto grandi stipendi e agevolazioni per il loro ruolo, accettando questo nella speranza che ci governassero bene e facessero gli interessi di tutta la nazione. Invece, assistiamo continuamente a una loro dichiarazione di fallimento. Io credo che se si accusano a vicenda, significa che tutti i politici di entrambi gli schieramenti sono responsabili di come purtroppo l'Italia si trova in questo millennio. Loro sono strapagati, agevolati in tutto. Basta andare su un qualsiasi motore di ricerca e digitare agevolazioni dei parlamentari per avere un piccolo quadro della situazione. Godono di tutto. Tra l'altro spesso hanno anche moglie e figli in ottimi posti e quindi altri stipendi che si aggiungono. Ma perché quando c'è da fare delle rinunce, loro, che sono i responsabili, non pagano? E a pagare è sempre chi ha fatto sacrifici. Io ho sempre paragonato lo Stato a una grande famiglia. E mi creda, a volte anche io, come padre di famiglia, ho avuto dei momenti non tanto felici. Ma ho sempre cercato di riportare a galla la mia famiglia, iniziando a fare io per primo una vita meno agiata, privandomi di molte cose e cercando di dare sempre il massimo a mio figlio. Perché i nostri politici, tutti, quando c'è da prendere, prendono, e quando c'è da fare sacrifici, si rivolgono a noi, che ormai già siamo spremuti abbastanza. Tra l'altro, mi permetta di dire che questi stipendi ingiustificati nuociono anche a chi li prende. Basta pensare agli scandali noti a tutti. Forse con meno soldi e meno privilegi i politici avrebbero una vera vocazione politica e sarebbero più giusti e più onesti. E con meno soldi probabilmente avrebbero una vita più dignitosa, perché lo sappiamo tutti, i soldi e il benessere in abbondanza portano alla dispersione dell'essere. Invece qualche euro in più a chi veramente fa sacrifici potrebbe essere una soluzione a tanti problemi. Vito. Caro Vito, il tema degli stipendi dei parlamentari costituisce ormai una protesta talmente rituale che rischia ormai semplicemente di annoiare. Ma lei affronta questo tema sotto un aspetto che merita di essere sottolineato. Lei non segue quel comodo e falso populismo secondo cui basterebbe tagliare i costi del Parlamento per risanare le finanze pubbliche. Lei afferma che i nostri politici hanno soldi e benefici tali da far dimenticare loro la necessità di fare il proprio dovere. Sono d'accordo, un po' di sobrietà non guasterebbe. Non si dovrebbe più poter parlare di privilegi, ma soltanto di strumenti per compiere quello che resta un dovere e un impegno. Il buon esempio dovrebbe venire dall'alto, soprattutto in momenti come questo in cui crescono le preoccupazioni e il disagio sociale. E invece non arriva nemmeno un piccolo segnale dai palazzi della politica. Ma vedrà, nella campagna elettorale ormai iniziata per le elezioni regionali, vi saranno sicuramente candidati che proporranno un taglio dei loro stipendi. O no? Il giorno dell'anniversario della morte di Eluana, la politica italiana ha rivelato il peggio di sé. Incapace di realizzare sul fine vita una legge semplice e liberale, ha rinfocolato polemiche sterili quanto dolorose per la famiglia di Eluana. È passato un anno, ma non c'è ancora nessuna legge che regolamenti l'argomento. L'emergenza tanto urlata da una parte e dall'altra è finita nel dimenticatoio. Ora, a fini di visibilità mediatica, rispuntano i paladini di destra e sinistra che si scannano in polemiche sterili sull'argomento ballando sul cadavere di Eluana. Il caso Englaro era un caso giuridicamente difficile ed eticamente lacerante, ma una legge sul fine vita è più semplice di ciò che sembra. Occorre semplicemente decidere in che modalità giuridica un cittadino possa decidere e dichiarare, in caso di coma vegetativo permanente, come il medico lo debba curare, cioè se debba continuare a somministrargli medicinali, cibo e acqua, oppure smettere. La politica non deve decidere se sia giusto oppure no, se sia moralmente o religiosamente ineccepibile. Deve solo definire in che modalità giuridica il cittadino possa esprimere la sua volontà. Mi sembra ineccepibile che se il cittadino non esprime la propria volontà, il medico dovrà continuare a somministrare cure e alimenti. Si smetta di ballare sul cadavere di Eluana, si smetta di rinfocolare il dolore dei familiari. Ci si preoccupi di permettere ai cittadini di avere la libertà di scegliere la propria morte in caso di coma vegetativo permanente. La politica in questo ambito non deve esprimere opinioni, ma costruire una semplice procedura giuridica. E per rispetto, tutto ciò andrebbe fatto in silenzio. Massimiliano. Buongiorno Radio 24. Rispondo a Mirella, la signora che il 9 febbraio, durante questa trasmissione, ha accusato gli animalisti di non muovere un dito per l'iniziativa della sede Coop romana di vendere carne di animali macellati secondo il rito halal. Secondo Mirella, il motivo del silenzio animalista è dovuto al rosso politico dell'identità Coop. Immagino che l'indignazione di Mirella sia dovuta alla fase di lugolazione del rituale islamico, dove vengono recisi i vasi sanguigni del collo della bestia, in modo da permettere il completo dissanguamento della carcassa. Detto ciò, la invito a visitare un qualsiasi macello italiano e a verificare lei stessa, riti o no, la paura, l'angoscia, l'indicibile sofferenza che provano gli animali prossimi all'uccisione. Esiste veramente una maniera più dolce di uccidere? Esiste forse la cosiddetta macellazione umana? Propone di manifestare contro un supermercato che vende carne? A me, che un animale sia ucciso in un modo piuttosto che in un altro, non interessa molto. A me interessa che viva. Cito le parole del Dalai Lama. Adottare un atteggiamento di responsabilità universale è essenzialmente una faccenda personale. Il vero test della compassione non sta in ciò che si afferma nel corso di astratte discussioni, ma in come ci si comporta nella vita di tutti i giorni. La compassione non ha colore e l'unico rosso che quotidianamente vediamo è quello del sangue degli innocenti. Sara. Caro direttore, ho sentito la lamentela dell'ascoltatore che, pur avendo vinto un concorso statale, non è stato assunto e che si lamentava per aver perso un anno di investimenti. Avrei due cose da dire, io che sono un piccolo imprenditore, e cioè che se il suo investimento di un anno andrà a buon fine, lui sarà in una botte di ferro per tutta la vita. Invece noi, a fronte di una vita di investimenti, saremmo ben contenti di avere anche un solo anno di sicurezze. C'è da dire comunque che il comportamento di uno Stato che non mantiene gli impegni è deprecabile. È da anni che le strette di mano e la parola data sono purtroppo considerate alla stregua di uno scherzo. Se non scrivi, faxi o registri ogni piccolo accordo verbale, nessuno si assume le sue responsabilità. Mi scuso con l'ascoltatore, ma purtroppo quello che vedo mi porta ad essere prevenuto su chi si trova nel girone degli statali. Perché oltre ad essere gli unici che in questo brutto periodo non rischiano nulla, sono anche gli unici che possono approfittare delle occasioni che questa crisi propone. Mi piacerebbe sapere se qualche statale abbia mai pensato ad autotassarsi di qualche euro per alleviare le sofferenze dei lavoratori che non hanno la sua fortuna. Preciso lavoratori dipendenti perché noi imprenditori è naturale che dobbiamo prendere quello che viene. Rudy. Ho ascoltato il vostro servizio sulla Glaxo, la società farmaceutica che a Verona intende chiudere il proprio centro di ricerca. Purtroppo, essendo stato per 12 anni consulente informatico di una multinazionale del farmaco, non mi stupisco di questo comportamento, perché è presente in molte realtà in cui si è perso il concetto di gestione industriale per far spazio alla gestione commerciale. Sono stati lentamente sostituiti i cosiddetti capitani di industria, che avevano un orizzonte di almeno 5 anni, con dei laureati in economia che usavano Excel come estensione del loro cervello e per i quali esistono solamente i target finanziari trimestrali e annuali. Abbiamo sostituito dei veri manager con dei ragionieri laureati. Ho anche il sospetto che parte delle colpe di questa situazione ricadano nel mondo finanziario, banche che cambiano ogni 2 anni il direttore e sono gestite loro stesse con la medesima logica, mercati azionari basati più sulla speculazione a breve che sul loro vero scopo, finanzieri rampanti, eccetera. È così che si creano le bolle speculative ed è così che scoppiano. Ogni volta la causa prima è la gestione distorta di un valido strumento quale la borsa e ogni volta chi ne subisce le conseguenze peggiori è chi ha lavorato onestamente. Credo si debba smettere di fare in modo che la borsa e la finanza vengano viste come easy money, perché così non è, o meglio, lo è nel breve, ma il denaro creato dal nulla è tale, perché pagato da qualcun altro. Luigi. Ho visto che il quotidiano La Repubblica ha dedicato ben 3 pagine al problema dell'esistenza di altri esseri intelligenti nell'universo. Mi sono detto, va bene che è davvero un problema riempire tutti i giorni la quantità enorme di pagine che compongono un giornale, ma non sarebbe preferibile cercare di capire prima quale senso abbia la vita dell'uomo sulla Terra? Sì, perché dopo i disastri e le sofferenze immani causati dalle ideologie totalitarie del secolo scorso, nazismo e comunismo, una delle quali ancora sopravvive, e le nuove ideologie di morte che avanzano e rendono gli uomini davvero alieni e nemici, penso sia proprio il caso di rivedere la storia del passato per cogliere quanto di meglio i nostri padri ci hanno trasmesso e che è indispensabile anche oggi. Claudio. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.